4 mattino. Sabato c'erano molte persone in giro, è vero, ma c'erano moltissime persone in giro rispettose delle regole che sono state comunque ormai recepite. Mascherine, distanziamento, igienizzazione delle mani, attenzione. È vero, c'era molta gente, ma se consente alla gente di poter finalmente tornare ad avere la propria libertà, la libertà la gente se la prende. Direi che sul trasporto, per quanto ne capisco io, ci sono i tavoli, ma all'italiana mancano le sedie. I miei fornitori, e ormai anche amici cinesi, mi chiedono come mai l'Occidente di nuovo, anche per Natale, torna ad essere in lockdown. Cosa gli rispondo io a questi? Gli risponde: ragazzi, siamo delle democrazie tendenzialmente liberali, e quindi non possiamo imporre le stesse cose che vengono imposte in Cina, con un controllo sostanzialmente militare di pezzi del territorio e imposizioni che qua oggettivamente sarebbero inaccettabili. Lo dico sinceramente, è così purtroppo. E quindi se la sente, risponda ai suoi fornitori, risponda ai suoi colleghi imprenditori, esattamente questo. Sì, c'era gente, lo dico all'ascoltatore, c'era gente rispettosa delle regole, sì, però c'era tanta gente in giro, oggettivamente, l'abbiamo visto tutti, chi ha messo il naso fuori ha visto che nelle strade, dello shopping e via dicendo, oggettivamente c'erano molte persone. Sul fronte dei trasporti sono perfettamente d'accordo, mi pare che l'intervista che abbiamo fatto poco fa, poi lo dico agli ascoltatori che se la fossero persa, potete andare sul sito di Radio 24 o su gli strumenti che utilizzate, le applicazioni che utilizzate per i podcast, risentitevi il podcast. Abbiamo intervistato Andrea Gibelli, presidente di Astra. A me sembra l'indicazione fosse abbastanza chiara, ci sono i tavoli, però non siamo ancora arrivati ad una conclusione sul trasporto pubblico, e il 7 gennaio ricominciano le scuole, quindi stiamoci attenti, semplicemente. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp, tutto quello che volete. Alle 7.19 e 27 secondi di martedì 15 dicembre inizia questa seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Al microfono sempre Simone Spezzi, e diamo come sempre un'occhiata innanzitutto alle aperture dei giornali, che come ovvio sono ampiamente concentrate su che cosa fare o cosa non fare. Un nuovo lockdown sotto Natale? Sì, no, forse. Gli scienziati: a Natale chiudere tutto, è il titolo del quotidiano nazionale. Un rosso Natale è il titolo di Avvenire, riferendosi al fatto che forse tutta Italia andrà in zona rossa. Blocco a Natale, governo diviso, è il titolo del Corriere della Sera. Zona rossa da Natale alla Befana, è il titolo del Messaggero. Il governo litiga sul lockdown di Natale, è il titolo del Manifesto, che però è la foto grande a centro pagina, è quella che rappresenta Joe Biden e Kamala Harris, che ieri, nel giorno nel quale finalmente Joe Biden è ufficialmente presidente eletto da ieri, perché i grandi elettori hanno votato, Stati Riuniti è il titolo del Manifesto. Il Giornale, arriveremo a questo, le carte nascoste sul virus in Italia, si parla del famoso tema del piano pandemico, il documento che a maggio faceva a pezzi la risposta di Roma al Covid da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. E di questo si occupa anche La Verità, con il titolo Speranza con le spalle al muro ha mentito sul piano pandemico. La Stampa intervista con il direttore Massimo Giannini, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, non straordinarie novità, devo dire, avanti solo se siamo uniti è il titolo di apertura, tutto questo per darvi l'idea. Abbiamo evitato il lockdown duro, ma per le feste in arrivo altre restrizioni. Renzi mi attacca, lo ascolterò ma non sono un dittatore, non voglio galleggiare, e dice ho la valigia pronta. Questo è il riassunto della lunga intervista a Giuseppe Conte con Massimo Giannini, riassunto che mi sembra già dica molto. Il Fatto Quotidiano apre con un'inchiesta sulla Lega. Andiamo prima sull'altro pezzo della politica. Conte tenta di isolare Renzi, PD e 5 Stelle dicono no al rimpasto, è il titolo della Repubblica. Il Fatto Quotidiano apre su un'inchiesta che sta conducendo, della quale la prima puntata l'abbiamo vista nel giornale di domenica, nel Fatto Quotidiano di domenica, per questo ieri non ve l'ho citato in rassegna stampa. Molto semplicemente è una vicenda che riguarda la Lega, appunto, tutti i bonifici dai lottizzati nelle ASL. Perché? Perché questa inchiesta, e ci arriveremo tra un attimo andando un po' nel dettaglio nel pezzo di Stefano Vergine, dall'inchiesta del Fatto Quotidiano emerge, sulla base di documenti che il Fatto Quotidiano dice di aver reperito, emerge che tutti i nominati in quota al partito, in quota alla Lega, per esempio alla direzione delle ASL, dovevano versare il 15% alla Lega. Gli italiani sbagliano meno del governo, è il titolo di Libero, non si può aprire per poi chiudere, e poi il Sole 24 Ore, partite IVA, pacchetto di aiuti in arrivo, ed è il tema sul quale ci si sta confrontando anche tra maggioranza e opposizione. Fatemi iniziare qualcosa di diverso, qualcosa che troviamo sul Mattino, ed è sicuramente una notizia, la riporta Leandro Del Gaudio a pagina 13, e soprattutto ci porta su un tema che abbiamo affrontato spesso anche da queste parti e che getta una nuova luce su un caso che è diventato il simbolo del cosiddetto revenge porn, il caso di Tiziana Cantone. Ne abbiamo parlato lungamente, la donna di Napoli che si è tolta la vita dopo che un video nel quale c'erano dei suoi rapporti con il fidanzato e altri partner è circolato al di fuori delle chat nelle quali questi video venivano scambiati. Ebbene, si apprende oggi da Leandro Del Gaudio che il caso viene riaperto perché si sospetta che non si trattasse di un suicidio. Sono ripartiti da zero, scrive Leandro Del Gaudio, dal lato finale della giovane vita di Tiziana Cantone. Hanno ottenuto il dissequestro di una pashmina di seta, strumento usato dalla 31enne di Mugnano per impiccarsi a una panchetta all'interno della sua abitazione alle porte di Napoli. Un suicidio, secondo gli inquirenti, che all'epoca dei fatti non ritennero opportuno fare l'autopsia. Una ricostruzione che non ha mai accontentato la famiglia di Tiziana, sulla scorta di due punti in particolare. La strana cancellazione delle tracce informatiche da iPhone e iPad di Tiziana e i segni sul collo della 31enne, una ferita profonda che, secondo le ipotesi sostenute di recente dai consulenti della parte offesa, non sarebbero compatibili con un foulard di seta. E quindi a questo punto, sulla base di tutta una serie di altri elementi, si ipotizza di rivedere questa classificazione, la classificazione della morte di Tiziana Cantone, come un suicidio. Al lavoro ci sono gli analisti della M-Team, consulenti informatici della parte offesa, che è rappresentata dal penalista Salvatore Pettirossi, che ha ottenuto la riapertura di un nuovo fascicolo sul caso, appunto, di Tiziana Cantone, un'inchiesta condotta in questi mesi dal PM Giovanni Corona, un veterano della magistratura inquirente. Un'inchiesta contro ignoti che batte però su un'ipotesi di reato forte. Si indaga per frode processuale, prospettiva inedita in questa storia. Teniamola presente perché questa è una vicenda, appunto, che anche per il rumore dei fatti che hanno riguardato Tiziana Cantone sarà da tenere d'occhio. Veniamo un po' di questioni che hanno a che fare con la politica, non con la politica inteso come verifica di maggioranza, rimpasto e via dicendo, ma, come vi dicevo, un po' di questioni che hanno a che fare con le inchieste. Le prime sono inchieste giornalistiche, ed è quella che vi dicevo del Fatto Quotidiano, che viene riportata in prima pagina, poi c'è un lungo pezzo di Stefano Vergine che racconta esattamente questo. I versamenti sono continuati almeno fino al 2019 e la lista dei nominati non riguarda solo la sanità lombarda, ma un pezzo enorme dell'economia italiana, partecipate di Stato, banche, finanziarie, fondazioni, multinazionali dell'energia, società aeroportuali, aziende di trasporti. È quello che il Fatto definisce il sistema del 15%, pervasivo, capillare, e non è un'abitudine che la Lega di Matteo Salvini ha abbandonato. È stato il commercialista Michele Scillieri a rivelarne l'esistenza ai PM di Milano nell'ambito dell'inchiesta sulla Lombardia Film Commission, ma grazie a documenti finora inediti e a diverse testimonianze raccolte, il fatto è in grado di provare come quel meccanismo sia in realtà strutturato e ben collaudato all'interno del partito di Salvini ancora oggi. Qual è questo meccanismo? Questo meccanismo prevede che chi viene nominato in un ruolo di dirigenziale, in un consiglio di amministrazione di una partecipata pubblica, appunto in un ruolo dirigenziale per esempio della sanità, abbia il dovere morale, aperte virgolette, chiuse virgolette, di versare il 15% del suo stipendio appunto alla Lega. Qui non stiamo parlando, scrive Stefano Vergine nel suo pezzo a pagina 8, di parlamentari, consiglieri regionali o comunali. Si tratta di manager ufficialmente slegati dalla politica, scelti per guidare aziende pubbliche come quella sanitaria. Domenica abbiamo pubblicato un elenco interno al partito con 34 nomi di dirigenti sanitari lombardi che dal 2008 al 2010 hanno versato regolarmente soldi al carroccio, donazioni da 6-7 mila euro l'anno ciascuno, che messi insieme hanno permesso al partito di raccogliere 350 mila euro nel triennio. Si portano dei nomi, per esempio chi ha continuato a versare l'obolo senza soluzione di continuità è Mauro Borelli, da una vita dirigente sanitario in Lombardia, prima direttore generale dell'ASL di Lecco, poi di quella di Mantova, adesso dell'azienda sanitaria territoriale Franciacorta. 18.000 euro tra il 2008 e il 2010, contattato dal fatto per un commento, Borelli non ha risposto. Alessandro Visconti, tra il 2008 e il 2010 direttore amministrativo dell'ASL di Milano, oggi salito di grado e diventato direttore dell'AST Fate Bene Fratelli Sacco. Nel 2015 e 16 ha donato in tutto 12.000 euro alla Lega, dicono i bilanci, mentre negli ultimi tre anni non c'è più traccia dei suoi contributi. E il pezzo poi prosegue con Stefano Vergine che ci racconta che ci sono anche manager di grandi aziende e di banche tra i cosiddetti pagatori, Andiamo dalle parti del Partito Democratico, perché c'è questa storia che solamente il Avvenire mette in prima pagina e trovate un po' sparsa tra le brevi nei giornali. A Reggio Calabria hanno fatto votare anche i morti. Questo è il titolo per darvi l'idea di quello che è successo nelle ultime amministrative. Siamo a pagina 12, il pezzo lo firma Federico Minniti. Ed è un'inchiesta che parte qua, ma che promette qualcosa di più se stiamo a quello che dice dice Giovanni Bombardieri, il procuratore di Reggio Calabria. Si tratta solo di un primo step, ci sono molti altri indagati e stiamo accertando un migliaio di posizioni. La posizione al momento al centro dell'attenzione è quella di Antonino Castorina, componente della direzione nazionale del Partito Democratico, risultato il primo degli eletti nella coalizione vincente del centro-sinistra in Riva allo Stretto con 1510 voti, e parliamo delle comunali di Reggio Calabria, quelle nelle quali ha vinto Falco Mattà. Ci sarebbe un vero, secondo gli inquirenti naturalmente, per carità, ci sarebbe un vero e proprio metodo Castorina. Nelle settimane precedenti il voto, il consigliere del PD avrebbe agito in una doppia direzione. Avrebbe racimolato centinaia di duplicati di certificati elettorali di persone ultra ottantenni ricoverate presso le cliniche per anziani. E poi distribuendo a proprio piacimento i ruoli di presidente, segretario e scrutatore nei seggi a lui più cari. Quindi l'incrocio tra le due cose è stato mandare qualcuno con questi certificati elettorali degli ultra ottantenni appunto in questi luoghi nei quali c'erano dei suoi fedelissimi e di fatto far passare questi voti come suoi. E gli inquirenti hanno trovato che tra questi certificati elettorali quattro erano di persone che erano morte e così avrebbe appunto gonfiato i suoi voti. Diverse perquisizioni, dice il procuratore di Reggio Calabria, siamo convinti che alcune evidenze verranno fuori dopo questa giornata. Vedremo come andranno su queste le cose su questo fronte per non lasciare fuori nessuno. Vabbè, però questo è un divertissement. A pagina 12 del giorno sul quotidiano nazionale Andrea Gianni ci racconta del, consigliere del Movimento 5 Stelle a Milano, Gianluca Corrado. Oh, ragazzi, io lo dico sempre, da quando ho visto quella storia del giornalista, anzi analista della CNN, che è stato beccato durante una riunione su Zoom a, per così dire, procurarsi piacere da solo, mettiamola così, perché non aveva spento adeguatamente la telecamera, dico, state attenti quando fate le riunioni online. E dunque Gianluca Corrado, durante la riunione in commissione in consiglio comunale, era appena tornato dal tribunale perché fa l'avvocato, era andato in bagno, si stava cambiando, si stava lavando le ascelle, c'è questo video della diretta della commissione nella quale c'è lui a torso nudo con dietro il boiler. Chiedo scusa, dice, ero di corsa. Occupatevi però, cari giornalisti, di quello che faccio io e non della cappellata che ho fatto. Una pausa. Sindaco in provincia di Pavia. Sì, è vero, i tavoli tecnici sono stati avviati, ma probabilmente non hanno ancora fatto nulla per il trasporto. I prefetti ci hanno chiesto di rispondere entro oggi quali sono le criticità. E quali sono le criticità in una provincia che conta quasi 200 comuni? Che bisogna aumentare le corse. Si ripresenta la didattica al 75%, se non aumentano i bus o non cambiano gli orari, però bisogna dare subito delle risposte, delle certezze. Macchinoni, caro Spezie, ormai sono il nostro stile di vita, ma da anni non esistono più le utilitarie, quindi non ci meravigliamo che Fedez sia andato a dare sti soldi con un macchinone. È questa, siamo questi. La differenza tra Italia e Germania è che in Germania quando chiudono arrivano già a darti soldi per i ristori, come si chiamano. In Italia chiudono e poi forse, magari, si vedrà, ti daranno qualcosa. Il punto dei ristori ce lo sottolineano molti ascoltatori. Ieri lo abbiamo raccontato, in Germania chiudono, cosa fanno? Danno il 90% dei costi fissi a chi è costretto a chiudere. E poi altre cifre a seconda di sul livello regionale. Amico mio, sarà pure uno stile di vita quello dei macchinoni, ma Fedez ci è andato in Lamborghini e quindi non so quanto siano diffuse le Lamborghini in Italia, però ci è andato in Lamborghini. La polemica era su quello, cioè non è che ci è andato, che ne so, con una macchina di medio livello, cioè è andato in giro in Lamborghini. Comunque l'avete sentito l'audio, per gli ascoltatori si fossero connessi solamente adesso e che fossero un po' fuori da queste vicende, cosa è successo? Ieri Fedez è andato in giro distribuendo 5.000 euro in pacchi da 1.000 a una serie di persone che gli erano state indicate, non singole persone ma categorie, appartenenti a categorie che gli erano state indicate da chi lo segue su Twitch, che è questa piattaforma per le dirette streaming, un senza tetto, un rider di questi delle piattaforme di consegna del cibo a domicilio, eccetera eccetera, e si è polemizzato sul fatto che è andato in giro in Lamborghini, sul fatto che fosse un gesto di cattivo gusto, lui si è difeso, eccetera eccetera eccetera. Vabbè, questa è la vicenda di Fedez, e grazie al sindaco della provincia di Pavia per questa sua testimonianza che mi sembra rilevante, cioè il fatto che la scadenza dei termini per dare una risposta ai prefetti fosse oggi già ci dice che siamo ovviamente in grandissimo ritardo per la gestione dei trasporti per il rientro a scuola. Vedremo come andranno le cose, vi prometto che resteremo attaccati a questa vicenda. Veniamo a un po' di questioni della gestione pandemica. Non male questa storia che ci racconta Libero a pagina 4, che è la preoccupazione degli specializzandi in medicina. Parte da questo. Ci racconta Libero con Sandro Iacometti che Arcuri, così la mette, non vuole pagare i medici che ci vaccineranno. Cosa succede? Succede che per la grande campagna di vaccinazione che dovrebbe partire il 15 di gennaio dovrebbero essere utilizzati anche 30.000 specializzandi. E però si è ipotizzato che cosa? Che non vengano pagati in denaro ma in crediti formativi queste 30.000 persone. Nota Iacometti, facciamo due conti. Nell'anno in corso, tra aiutini, sussidi e spese varie, il governo ha già stanziato oltre 100 miliardi caricati sul nostro debito pubblico. Altri 40 sono previsti dalla manovra. Poi c'è un ulteriore scostamento di bilancio, si dice di una ventina di miliardi, programmato per gennaio in attesa che arrivino i 209 miliardi del recovery. Tanta roba, eppure sembra che non si riescano a trovare un po' di spicci per dare qualche euro a chi farà i vaccini. Non c'è una decisione ufficiale su questo fronte, ma la notizia sta circolando molto rapidamente, anche perché il ministro dell'università e della ricerca ha già scritto una lettera non proprio che non dice proprio questo, ma lo fa intuire, tanto che Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale dei Medici, dice: qui non c'è nessuna attività formativa, nel momento in cui devi fare una semplice vaccinazione si tratta di prestazioni professionali e come tali devono essere retribuite. A proposito di cose sulle quali potremmo essere un filino in ritardo, io per carità, massima fiducia nel chi deve mettere mano alla costruzione di questi padiglioni a forma di primula nei quali leggiadramente entreremo per farci vaccinare. E però mi era sfuggita, lo trovo sempre in questo pezzo di Libero, le parole su questo fronte dello stesso Arcuri, che dice questo. A che punto è la realizzazione? Stiamo elaborando un budget e la scheda di realizzazione dei gazebo. Pensiamo che ci saranno molte aziende che svolgeranno questa funzione pro bono, ossia costruiranno questi gazebo gratis. Ci aspettiamo e siamo certi che ciò accadrà, in qualche caso già lo sappiamo. Non sarà la questione economica da considerare, molti ci regaleranno, ci stanno regalando il frutto del loro ingegno e del loro lavoro. Vedremo come andrà anche coi padiglioni a primula. Nel frattempo vi faccio sapere questo. Sempre sulla stessa pagina di Libero c'è uno spunto interessante che arriva da San Marino. Il metodo è questo e lo ha annunciato il segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale Roberto Ciavatta. Chi rifiuta il vaccino si pagherà le cure. Non male questa scelta di San Marino e farà discutere per quanto riguardi solamente 35.000 persone. Tutta la vicenda del piano pandemico dell'OMS, del rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che diceva che la risposta italiana era stata debole, sbagliata e via dicendo. Ne entra in possesso il giornale che ne dà notizia, pagina 12, con Luca Fazzo. L'OMS smentisce il giallo, ecco il report originale. Il documento fa pezzi la gestione del Covid in Italia, ma il governo l'Organizzazione Mondiale della Sanità fa sapere che il governo italiano non ha mai chiesto all'Organizzazione Mondiale della Sanità di rimuovere il documento. Che critiche ci sono in questo documento? Le minimizzazioni della prima fase, il caos nel tracciamento dei dati, un patchwork di dati raccolti con carta e penna e fogli Excel, e disegna un paese impreparato al disastro, con un piano pandemico fermo al 2006, con gli aggiornamenti rimasti più teorici che pratici, con pochi investimenti e traduzione in misure concrete. Cosa dice l'altra parte, l'Organizzazione Mondiale della Sanità? L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che in quel rapporto c'erano degli errori fattuali ed è per questo che si è chiesto di rimuoverlo. Posizione che Ranieri Guerra, che fa parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e vice direttore vicario, ribadisce in un'intervista a Enza Cusmai, sempre sulle pagine del giornale, a pagina 12, dice: un attacco pilotato contro di me, e appunto conferma in quel rapporto, chiese di rimuovere quel rapporto perché c'erano degli errori fattuali. Il traffico. Mattino. Allora, Il fronte tra il politico e l'economico. Iniziamo dal fronte economico, perché su questo aspetto si sta cercando un accordo tra maggioranza e opposizione. Lo dico a tutti i nostri ascoltatori che sono lavoratori autonomi, perché visto che parlavamo poco fa di ristori, ce lo racconta bene il Sole 24 Ore, che a questo dedica l'apertura con un pezzo di Marco Mobile e Marco Rogari. Spunta la decontribuzione per le partite IVA, di fatto un periodo, un anno bianco, per così dire, nel quale le partite IVA potrebbero non pagare i contributi. Il confronto tra governo e opposizione è proprio sul pacchetto degli autonomi. Appunto, si valuta lo stop ai contributi fino per le partite IVA fino a 50.000 euro. Sul tavolo anche la proroga del superbonus del 110%. È su questi snodi che si sta lavorando sulla manovra in questo momento, manovra che ieri è arrivata in commissione. E si sta studiando esattamente questo, mentre si lavora anche al ritorno della cedolare secca anche per le locazioni di immobili ad uso non abitativo. L'idea è quella di renderla strutturale, ma pesa ovviamente, come sempre, l'incognita delle risorse. Questo il fronte degli aiuti anti-Covid, che ci arriva dal Sole 24 Ore a pagina 5, il quale Sole 24 Ore con Barbara Fiammeri racconta anche quali sono le proposte, le priorità del centrodestra proprio per trattare con il governo, sono gli autonomi e la scuola paritaria. Poi c'è tutta la questione politica, che è una questione politica ovviamente interna alla maggioranza. Oggi ci sarà l'incontro tra Renzi e Conte. Conte che nel retroscena di Tommaso Ciriaco, Emanuele Lauria, siamo a pagina 9 della Repubblica, cerca di isolare Renzi, e Renzi che dall'altra parte dice: venga in Parlamento o a fine anno stacco la spina. Segnali di dialogo arrivano nell'intervista rilasciata oggi dal Presidente del Consiglio, come vi dicevo, a Massimo Giannini, il direttore della Stampa, un'intervista lunga di 2 pagine. Ragazzi, su questo fronte vedremo come andranno le cose. Ancora oggi i giornali sono pieni di retroscena su questo fronte. Vi voglio portare a questo punto su un paio di spunti, un paio di idee collegate alla vicenda di Giulio Regeni. Allora, ormai lo sapete, ne abbiamo parlato lungamente anche ieri su questo, poi ci avete scritto, ci avete mandato i messaggi anche su WhatsApp. La storia è quella di Corrado Augias, che ha deciso di restituire la Legion d'Onore perché non vuole essere accomunato ad Abdel Fattah al-Sisi, il presidente egiziano che ha ricevuto a sua volta la Legion d'Onore all'Eliseo. Su questo fronte vi voglio dare 2 spunti. Il primo è questo, che apprendiamo da pagina 15 della Repubblica con Anais Ginori, la corrispondente, che dato che l'Eliseo, la presidenza della Repubblica francese, aveva fatto sapere, guardate che attribuire la Legion d'Onore è una questione standard per i capi di Stato in visita. In realtà, apprendiamo, non è così. Non è successo né per la visita del presidente cinese Xi Jinping nel 2019, né per quella del leader sudafricano Jacob Zuma nel 2011. I presidenti francesi hanno spesso usato la Legion d'Onore creata da Bonaparte per appoggiare una strategia di alleanza, di interessi condivisi, di calcoli più a lungo termine. Come sottolinea Le Monde, non è una condivisione di valori, aggiunge il quotidiano. E una critica molto dura si solleva nei confronti del gesto di Corrado Augias e arriva da Giuliano Ferrara sul Foglio, che, guardate il titolo, per darvi la misura, il titolo è questo: il legionario vanitoso. A ricordare che gli interlocutori, così sostiene Ferrara, non sono i francesi, ma sono italiani, Scrive tra le altre cose Ferrara: le onorificenze bisogna, come i premi, sapersele non meritare, ma questo è ancora un altro discorso. Una volta esaurita la voluttà di destino ed importanza che l'onore octroyé di una grande nazione comporta, ecco il momento di riflettere. Macron ha trattato bene al-Sisi. Anche noi gli abbiamo venduto le fregate e l'ENI lo tiene per onorato a prescindere. Con la differenza che Regeni era un cittadino italiano e se uno volesse prendersela con uno Stato per non aver trovato timbro e tono giusti di voce nell'affare del suo omicidio e tortura in carcere al Cairo 4 anni fa, c'è qui il governo italiano che questo Stato rappresenta all'estero, con il suo corteggio di commercio, diplomazia, legami. Fa meno fino, ma impegna più di un atto di lotta civile rivolto al vero interlocutore, meno simbolico, inutile, cordiale, amaro e sentimentale. A ricordare Ferrara appunto che il tema è proprio come si comporta il governo italiano in questa vicenda, e un pezzo affiancato a quello di Giuliano Ferrara dice questo, parla della supplenza dei pubblici ministeri. Anche su Regeni l'unica iniziativa dello Stato non è politica ma è giudiziaria, di fatto sono stati i PM. Altri due tre spunti molto rapidi. Il primo è da leggere tutto il pezzo di Alessandro Rosina a pagina che inizia in prima pagina e si chiude a pagina 31 del Sole 24 Ore, il quale ci ricorda in prospettiva quello che è il vero grande problema italiano, l'emergenza demografica. È prevedibile che forse già l'anno prossimo saremo meno di 60 milioni. Considerate questo calo demografico era previsto, l'arrivare sotto i 60 milioni era previsto per la metà del secolo, e quindi abbiamo anticipato di 30 anni quello che ci si attendeva. È stata ovviamente la pandemia, e però è una tendenza alla quale, sulla quale bisognerebbe confrontarsi più seriamente. Il secondo spunto, sempre dal Sole 24 Ore, è quello che alcuni di noi, molti di noi hanno sperimentato ieri, questi 45 minuti di buco nei servizi di Google, che vuol dire anche YouTube, vuol dire mille cose. Ebbene, qua c'è un bellissimo pezzo di Luca De Biase che ci ricorda cos'è effettivamente, cosa è diventato Google e com'è difficile sciogliere il mondo da questo nodo, no? Quando si stacca la protesi tascabile del cervello, perché alla fine è proprio questo, per 2,5 miliardi di persone una protesi del cervello che si porta in tasca nella forma di un telefono Android, per quasi 4 miliardi di persone è la prima risposta che viene in mente quando hanno una domanda, tanto che fanno quasi 7 miliardi di ricerche al giorno su Google, 2 miliardi di umani guardano e scambiano video su YouTube, 1,5 miliardi di persone la usano per mail, per scrivere e condividere documenti, per tradurre, per decidere il percorso per andare dal punto A al punto B, e quindi forse una riflessione su questa profonda dipendenza che abbiamo da uno strumento come Google, che è lo strumento di un'azienda privata, andrebbe fatto. Infine, negli ultimi 30 secondi, c'è una storia bellissima, la trovate su un paio di giornali, che arriva appunto, che parte dagli Stati Uniti e arriva all'Italia. La racconta Letizia Gamberini su Quotidiano Nazionale. È la storia di Martin Adler. Chi è? 96 anni, era un soldato americano e cercava 3 bambini trovati dentro una cesta durante la Seconda Guerra Mondiale, 3 bambini che aveva salvato, 3 fratellini con cui si scattò una foto da ventenne. Ebbene, li ha ritrovati. Sono Bruno, Mafalda e Giuliana Naldi. C'è questa foto del 44 e la foto di lui oggi 96enne, di questi allora bambini che adesso ne hanno 79, 81 e 83, sono di Castel San Pietro Terme, alle porte di Bologna, e ieri si sono riabbracciati dopo appunto, dal 44, ragazzi, dal 44. GR24, ci ritroviamo tra poco con Paolo Mieri.